E. Ascolta e indica la parola o le parole che senti. 1. Qui ci sono solo sentieri bui. 2. Un biglietto da 15 euro, per favore. 3. Cadrò per mettere su questo quadro. 4. Non si può lavare questa giacca in acqua. 5. Mi sembra un discorso equilibrato. 6. Sai disegnare uno squalo? 7. Il regista inquadra la squadra prima della partita.